Tempo di celebrazioni, perché ci sono una serie di personaggi che sono più o meno tutti coevi. 2 anni fa abbiamo festeggiato il centenario della nascita di Gianni Rodari, quest'anno di Mario Lodi, il prossimo anno sarà il caso delle nascite di Bruno Ciari e del maestro Manzi, insomma tutti i personaggi che hanno fatto grande la pedagogia nella scuola italiana. Quindi torniamo a parlare di Mario Lodi, questo incredibile personaggio di cui appunto si stanno narrando i meriti. L'abbiamo analizzato nel libro della Vanessa Roghi, in altri aspetti della sua variatissima attività. Oggi prendiamo in esame in particolare il teatro e lo facciamo grazie a un intervento colto in questa prima sortita del Comitato per le celebrazioni di Mario Lodi, che sotto l'egida di Yuri Meda, professore dell'Università Maceratese, ha sentito anche l'attore Giorgio Scaramuzzino, che appunto ci racconterà come Mario Lodi è stato veramente anche un grandissimo innovatore nel mondo del teatro e della sua capacità di intervenire nella coscienza. Che insieme a Gianni Rodari ha fatto nascere in me la passione e ha dotato a me di una teoria, di una voglia fondamentale per il mio lavoro di attore. E come me tantissimi attori che si occupano di infanzia e di ragazzi. Perché noi siamo partiti esattamente dalla scuola, la storia del teatro ragazzi è proprio fatta così. Siamo partiti dall'animazione teatrale nelle scuole. Il teatro ragazzi è nato da questo grande movimento che è stato l'animazione teatrale. E noi animatori teatrali, gente che andava nelle scuole, non poteva non incontrare Mario Lodi, perché Mario Lodi ha insegnato a noi che cosa vuol dire avere un rapporto con la scuola. E lì è nato tutto. Io ho iniziato la mia attività nel 1978 e nell'82, se non sbaglio, è uscito un libro, Ciao Teatro, nel quale c'erano tutti i presupposti perché io facessi questo lavoro qua. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, Mario Lodi, soltanto una volta. È stato un incontro meraviglioso. E perché quando si incontrano i maestri, io, ad esempio un altro mio maestro, Gianni Rodari, conosco molto bene la moglie, ma lui non sono riuscito a conoscere, mentre Mario Lodi l'ho proprio incontrato e l'ho ringraziato per avermi dato tutte queste suggestioni che hanno portato a fare questo lavoro ormai lungo tanti tanti anni. Ciao teatro! Ciao teatro è stato questo, è la Bibbia, è tutto sottolineato, è l'edizione originale, 4.500 lire costava. E in questo c'erano tutti i presupposti anche del modo di fare teatro, non solo il modo di rapportarsi con i bambini, ma il modo proprio di recitare. Io poi ho scoperto dopo, quando io ho fatto una scuola di recitazione, la scuola di recitazione dello Stabile di Genova, che ero in qualche modo già formato come attore, perché Mario Lodi, non so quanto consapevolmente, aveva studiato il modo di fare teatro, che non è quello che molti credono, che di impersonificare un personaggio, ma è quello che è di entrare nel personaggio con se stessi, con la propria personalità, col proprio vissuto. Chiama Mario Lodi, chiama proprio vissuto. E ci sono dei brani per dirvi quanto lui sapeva di recitazione e quanto lui sapeva come lo strumento teatro poteva essere uno strumento educativo di fondamentale importanza all'interno della scuola. Mario Lodi dice, tra altre cose, basta con queste recite scolastiche, così, no? Con queste recite scolastiche, niente costumi, dice, niente scenari, niente oggetti. È il corpo, la parola, l'immaginazione sono gli elementi con i quali si inventa il gioco e la storia. Basta prendere le storie dai fascicoletti, dai copioncini che girano. Le storie bisogna inventarle, perché se le inventano i bambini le storie, le vivono. Non fanno più io interpreto un personaggio, ma lo fanno vivere questo e continua dicendo una cosa che a quell'epoca io non capivo, ma poi recitando e facendo il regista ho capito perfettamente. E dice, i personaggi scelti dai bambini per la loro congenialità vuol dire che loro aderiscono psicologicamente al personaggio, quindi con vivacità espressiva, e direi che la recitazione diventi una finta finzione. Ma guardate che è una cosa rivoluzionaria per l'82, quando ancora eravamo lì, ancora oggi ci sono certe recite scolastiche dove si vedono i bambini balbettare qualche battuta imparata a memoria. Nell'82 era una rivoluzione questa di dire alle maestre e ai maestri: non fate recitare i bambini, fateli vivere, fateli giocare, ma soprattutto a scuola. E perché continuiamo a dire che solo la scuola è il momento in cui i bambini sono se stessi, e il teatro è un modo per cui sono ancora più se stessi. Perciò guai riempirli di cose inutili, no? I costumi, le cose inutili. No, i costumi e il corpo e il loro vissuto, che io poi successivamente nei miei testi ho chiamato memoria emozionale, ma che è la stessa cosa in fin dei conti, fondamentale per un attore. E poi sentite qua cosa dice. Dice una cosa pazzesca. Nella scuola, lui dice, la vita bambino non entra. Il teatro, se si fa la cosiddetta recita, no? I testi di Natale, a Carnevale, no? No? I saggi, no? Lui era contrario a queste cose. Il bambino è un oggetto e deve essere l'oggetto, il soggetto dell'intervento scolastico. Invece diventa un oggetto così, con la recita. Non si tiene conto della sua storia, delle sue esperienze in cui si trovano le fondamenta del suo vero apprendimento, della sua formazione. Non c'è rispetto del suo mondo affettivo e delle sue esigenze espressive. Guardate che questa è il fondamento della recitazione. L'attore vero non è che si chiede come devo fare un personaggio, si chiede quale della mia esperienza emotiva, emozionale, del mio vissuto può essere utile al personaggio che devo interpretare. E questo, pensate bene a livello educativo, che potenza ha. Cioè io dico al bambino: tu devi essere te stesso recitando. Più te sei te stesso, più sei te stesso, e più avrai originalità nella recitazione, e poi sarai un vero attore. E per un insegnante cosa vuol dire? Se tu sei te stesso, io capisco chi sei e posso guidarti nella tua crescita. È educere, tirare fuori. Questo è il principio fondamentale dell'educazione, ed è fare teatro. E questo Mario l'ha capito quando invece si vedevano in giro per il mondo le recite. E noi eravamo indotti in questo mondo a fare la recita e a fare il saggio di fine anno. E Mario, il grande rivoluzionario, ci diceva queste cose qua. Ci diceva appunto: teatro e vita per i bambini possono considerarsi la stessa cosa, il teatro e la vita. Aspetti diversi, ma dello stesso vissuto. Il teatro deve essere la vita, la loro vita. Nessun diaframma li separa perché coincidono, ma solo a scuola. Perché per il resto le convenzioni, le standardizzazioni di massa, come succede oggi, ancora più di ieri, cercano di uniformare il bambino, di farlo diventare uguale agli altri. Invece il teatro aumenta e fa apprezzare la diversità. Nessun diaframma li separa perché coincidono, dice. La sintesi tra vita, scuola e teatro nella rappresentazione dell'esistenziale sul piano reale o fantastico può realizzare nella prassi quotidiana l'utopia del protagonismo infantile nel processo educativo. Cioè, diventa perciò il teatro, fare teatro con i bambini, uno strumento eccezionale per l'insegnante per poterlo guidare. Diventa uno strumento essenzialmente educativo. Perciò fare teatro significa far vivere il bambino, far vivere nella memoria, spesso e volentieri, ma anche nel presente il bambino. Mario in questo libro ci dice: io guardo i bambini quando giocano nel cortile e dico: ma perché quei genitori non li possono mai vedere così? Non li vedranno mai così, soltanto a scuola. Ed è per quello che è importante la scuola, ahimè, in questo periodo, più che forse in altri periodi, perché a scuola il bambino è molto più se stesso che altrove, forse. Beh, forse in famiglia va bene, ma dico negli altri ambiti. Perché gioca? Perché gioca? quanto è importante il gioco in teatro. E recitare in tutte le lingue europee si dice giocare, non per niente. E poi ancora dice delle cose innovative. Il teatro differisce dal film e dallo spettacolo, oggi aggiungerei, e dal computer, e da tutti questi media, per una caratteristica che oggi ha un'importanza fondamentale. E questo, quello che dice, è sostanziale. Chi parla, recita, comunica, è una persona viva. Il teatro si fa con le persone vive e perciò c'è un rapporto in carne e ossa con il quale si stabilisce un contatto umano e con il quale si può dire o far capire in qualche modo che cosa si pensa di quello che si ha di fronte. C'è il rapporto interpersonale, un rapporto che oggi è sempre meno, a parte il Covid che lo ha accentuato, se non altro. Insomma, Lodi è stato un maestro anche in campo teatrale, e molti dei miei colleghi non sanno che Lodi è stato un loro maestro inconsapevolmente, perché ha portato nella scuola questa grande rivoluzione che già in qualche modo aveva accennato Rodari, naturalmente, e infatti tra i due c'è sempre stata molta sintonia, ma lui ha approfondito facendone molto di più che Rodari di teatro. Io ho appena scritto La voce teatro per l'enciclopedia che è uscita dall'Electa del teatro e mi sono accorto che lui sì, ha scritto qualche cosa, ha teorizzato molto poco però sul fare teatro con i bambini, mentre Lodi, ad esempio, lui ci continua a dare queste indicazioni. Ciao Teatro è un libro pieno di questo, ma non solo Ciao Teatro, in tantissimi saggi, in tantissimi articoli Mario ci parla di questa importanza educativa del fare teatro, e io sono orgogliosissimo di essere della partita, di essere di questa tribù. Tribù è una parola che mi sembra potrebbe piacere a Mario. Sto seguendo questa edizione teatrale di CP e Bandiera, che è stato per me un lavoro entusiasmante, perché abbiamo preso tantissime versioni che Mario ha scritto con i bambini di questi due grandi racconti, e li abbiamo adattati, li abbiamo trasformati in questi due copioni teatrali con lo spirito di Mario Lodi. Lo vedrete quando uscirà, perché sono aperti, non vogliono essere i copioncini per la recita, vogliono essere pretesti per far vivere ai bambini la loro vita e soprattutto il loro vissuto, per poterci dire a noi educatori chi sono loro, per poterli aiutare. E per questo io ringrazio per il lavoro che sto facendo, che è il lavoro più bello di quel mondo, quello di raccontare storie ai bambini. Grazie davvero di cuore, Mario Lodi. Il quaderno, l'astuccio, il diario, il righello e l'abecedario, con le lettere e i numeri in fila, e tra questi mi accorsi di lui. Se ne stava panciuto e pienotto, tutto tondo era il numero 8. Ma lo sento ad un tratto cinguetta, gli spunta un'aletta ed un'altra più in fretta, poi una... No, sono finite. Poi le piume, le zampe, il codino e quella ugellino ha iniziato a volare. E lo sai chi era Lillino caro? None. Te lo dice paparino tuo. Era 8 il passerotto pieno di felicità. Questo numero pienotto che ha iniziato a svolazzar. E sui platani, sui pini, qual provetto aviatore. E gli amici suoi uccellini lo salutan con ardore. Perché 8 diventa un passerotto? Perché è una favoletta, Lillino caro. No, non gli piaceva essere un 8? Ma gli piaceva una cifra essere un 8, solo che... Sai come succede nelle favole? C'è la fatina con la bacchetta magica e 8 diventa un passerotto. Però non è finita la favola, stai a sentire adesso che si sviluppa tutta quanta. È bella, capito, Lillino caro? Era 8 il passerotto, zeppo di felicità. Un po' pilota, un po' pilotto, che ha iniziato a svolazzar e decolla come un raggio fino al mare. Fino al... caro, non è la mucca, senti, non fa rima. Invece 8 passerotto fa rima, 5 mucca non fa rima. 5 mucca. No, Lillino, otto passerotto. Senti che fa rima. Mucca non fa rima, quindi non c'è. Mucca. No, Lillino, non c'è. Ma ascolta invece la favoletta di Otto il passerotto. È carina, questo è solo l'abbrivio. Invece adesso c'è tutto lo svolgimento, il momento topico. È proprio bellina assai, capito? Sentila, Lillo, senti. Ehi, ra, Otto il passerotto, ebro di felicità. Un po' Gianni, un po' Pinotto, che ha iniziato a decollar. E sorvola come un razzo. Senti le montagne pepette. Fino alla... Senti il pepette. Che cos'è il pepette? Fa rima, sette pepette. Ma, se, ma non esiste, deve essere una cosa che esiste e che faccia rima, come Otto il passerotto. Sette pepette, fa rima, stacce. Lillino, fa rima, ma non c'è. Perché non esiste, quindi non c'è. Non c'è in questa favola e non c'è, non esiste. Deve essere una cosa che fa rima. Ma ascolta la favoletta che è tanto bella, me l'hai chiesto tu. Mi racconti una favoletta, paparino? Io te la racconto, però se non l'ascolti non ti addormi e io non posso fare quello che devo fare io. Ascolta che è carina, senti. Era Otto il passerotto, zuppo di felicità. Sto venuto panzerotto che ha iniziato a scolacchiar. E decolla come un razzo e le montagne fino al lago. E sì, nove e nove. Che bove? Nove bove, fa rima e c'è. Ma che c'entra Lillino? C'è dove? Non il quattro? Nella... Non lo so. Il quattro è il gatto. Gatto neanche, quattro neanche gatto. Fa rima. Lillino, neanche fa rima, non c'è. Non e c'è dieci? Nella... Non lo so. Dieci e pasta e ceci, fa rima e c'è. Lillino, mi stai ascoltami, non c'è nella favola. Questa è la favola di Otto il passerotto. E parla solo di Otto il passerotto. E il 50.000 ed è tanto carina, diventa... tanto bellina, perché lui è un 38? Otto, è un numero, poi passa la fatina con voglio la bacchetta e lui diventa un uccellino. 1.923.000 con 112. Solo che la prima volta è un uccellino, quindi che fa? Non sa volare, quindi 52? Si perde nel bosco e trova un castello incantato. 74. Svolacchia fino alla finestra e vede dentro un'ombra nera. Si gira ed è un mostro orrendo, solo che c'è la faccia di Laura Pausini. Allora lui si spaventa, cade in cantina, ci sono i bagarozzi, vedi che è il re dei bagarozzi. È il 23? È bucio di culo! Non è animale, bucio. Sti cazzi, il bucio di culo è messo a fare a contatto a sta fregnaccia! E il 77? Le tette, le zinne! E l'88? Sono le zoccole che fanno le pompe ai cavalli, dai! E il 103? Sono i rasponi a Dumano, continua che famo bingo, dai, che sono tutta smorfia! Passerotto? No, Otto era il passerotto. E questo era un brano di Lillo e Greg, non esattamente degli ottimi educatori, comunque noi torniamo a parlare della nostra mostra Antropocene, che è in questo momento in esposizione al Dams Lab, con queste 76 opere di grafica, fumetti, stampe e quant'altro, che vanno a simboleggiare una battaglia irriducibile in difesa dell'ambiente. Tra le altre cose da vedere ci sarà anche il dogo, questo uccello preistorico che dai primordi si è estinto nelle isole Maurizio già cioè nel 1861, dalle forme abbastanza minacciose, che è un pezzo dei tanti che il parco degli dinosauri in carne ed ossa ci ha prestato per corredare, direi in modo fumettistico, questa mostra, questa esposizione, anche perché i dinosauri ci ricordano che si può vivere senza l'uomo, è vissuto per milioni di anni la terra senza l'uomo e anche colossi come i dinosauri si sono estinti, quindi non è una fantascienza ma è una realtà, la possibilità della nostra fine del mondo. Peraltro vogliamo ricordare che durante la mostra verranno consegnati ai visitatori dei biglietti, perché l'8 dicembre, non già in un vernissage ma in un finissage, con questi biglietti potranno partecipare a San Lazzaro, al parco dei dinosauri in carne ed ossa, a una visita guidata. Un'occasione quindi da non perdere. E allora con Claudio andiamo a conoscere qualcosa di più su questo parco delle meraviglie passate. Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi torniamo a parlare di cultura, lo facciamo con un nostro graditissimo ospite, perché noi qui a Radio Città Fujiko ne siamo curiosissimi di dinosauri. Abbiamo qui di fianco a noi il curatore della mostra permanente del parco Dinosauri in carne ed ossa di San Lazzaro. Lui è anche paleontologo, ci teniamo a precisarlo, quindi è spesso on site per scavi, per ricerche. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Eh sì, perché comunque Dinosauri in parco Dinosauri in carne ed ossa è un parco, se vogliamo, anche di divertimento, perché è possibile esplorare all'interno di una fitta vegetazione i modelli a scala naturale dei dinosauri, ma è anche un parco scientifico. Eh sì, appunto, quindi il nostro progetto è proprio quello di fare buona divulgazione e venendo a scoprire il nostro percorso cronologico che va appunto da più di 300 milioni di anni fa fino al giorno d'oggi, si riesce ad imparare divertendosi quella che è la storia della vita sul nostro pianeta. Attenzione particolare anche sulle scoperte che sono state effettuate qui in Italia. Assolutamente sì, c'è un'intersezione dedicata alle scoperte italiane, sono anzi più d'uno gli animali che si incontrano nel percorso, che appunto poi tramite la cartellonistica, chiedendo agli operatori appunto del parco, che sono assolutamente super informati su tutto quello che c'è all'interno, sono appunto, dicevo, più d'uno i protagonisti che possono essere collegati alla storia del nostro pianeta, ma soprattutto del nostro territorio, dell'Italia. Quindi ci sono dinosauri italiani, ma ci sono anche animali vissuti in tempi più recenti, sempre ritrovati in Italia, ma anche animali più antichi dei dinosauri, come il millepiedi gigante, come l'artropleura, che anche esso è stato da poco scoperto anche sul nostro territorio. Quindi una mostra spettacolare, una mostra scientifica e infine didattica, appunto aperta a tutte le scuole per approfondimenti e visite guidate. Ricordo che la visita guidata avrà la possibilità di avere una persona che spiega anche nel dettaglio quello che è quello che viene mostrato. Sì, assolutamente, ci teniamo a dirlo, proprio per tutte le fasce d'età, perché possiamo raccontare quello che c'è nel parco sia ai bambini di età prescolare, quindi quelli che arrivano ai 5 anni, ma anche agli studenti delle scuole superiori, anche volendo agli universitari, perché comunque la mostra ha tante chiavi di lettura, ci sono tante curiosità, tanti aspetti, tanta scienza e anche tanta arte che possono essere appunto raccontate per far vedere come realizziamo, a partire dallo studio dei reperti fossili, questi modelli a grandezza naturale, proprio poi con l'aiuto anche di artisti, artigiani e così via. Sì, quindi per farsi un'idea, allora ricordiamo il sito internet e la pagina Facebook. Sì, www.dinosauricarneossa.it/sanlazzaro, e per la pagina Facebook, Instagram, così cercate Dinosauri in Carne e Ossa il parco e ci trovate. Il parco, ricordiamo, è all'aperto, ma adesso che la bella stagione è durata più del previsto, perché l'estate è durata un po' più a lungo, se si può dire, andiamo invece a guardare all'attività che farete per autunno e inverno, visto che il parco comunque resterà aperto tutto l'anno. Sì, rimaniamo aperti per tutto l'anno, anche nella brutta stagione, perché comunque una passeggiata all'aperto è sempre piacevole, sempre gradevole, e faremo degli orari che sono leggermente più corti nel pomeriggio per via del cambio dell'orario e della minor luce appunto verso la sera, però appunto sabato, domenica e festivi saremo sempre aperti dalle 10 alle 18. Ovviamente consiglio di controllare sul sito www.dinosauricarneossa.it/sanlazzaro tutte le fasce orarie, le modalità per accedere, e soprattutto saremo aperti anche per le scuole che vogliono prenotare e venire a fare una visita guidata o delle attività, che possono appunto venire in qualunque giorno della settimana mettendosi d'accordo con la nostra segreteria. Feathers!